Lui respira le parole, i silenzi e le emozioni. E che cosa può saperne lui di schemi ed equazioni? La di un piccolo paese in cerca di fortuna, in una città gigante che alle volte fa paura. Ed è facile sentirsi soli in un posto così grande, tra illusioni ed occasioni. Ed è facile sentirsi persi se la pioggia si confonde con le lacrime che persi. E lui lo sa bene come ci si sente tra le luci dei palazzi e le nuvole di gente. E lei, che di solito rincasa per le sette, si affaccia alla finestra e cerca le sue stelle. Loro non lo sanno, ma guardano lo stesso cielo insieme. E si stanno cercando, sarà quel filo che li lega insieme. Chiamalo destino, che poi di noi fa sempre ciò che vuole. Cammina lungo il fiume con gli occhi verso il cielo, come se cercasse lì nel blu qualcosa di vero. Sullo stesso marciapiede anche lei sguardo nel vuoto, distratta dai pensieri inciampa e lui la prende al volo. E ormai l'ha capito come ci si sente quando trovi la tua luce tra le nuvole di gente. Lei che di solito rincasa per le sette, stanotte non sarà da sola a cercare le stelle. Loro non lo sanno, ma guardano lo stesso cielo insieme. E si stanno cercando, sarà quel filo che li lega insieme. Chiamalo destino, che poi di noi fa sempre ciò che vuole. E guardano lo stesso cielo insieme. E si stanno cercando, sarà quel filo che li lega.